Ciao a tutti, introduco brevemente questa bella serata. Abbiamo al tavolo Gabriele Di Luca, che è l'ispiratore di questa iniziativa, ce l'ha proposta tempo fa, abbiamo accolto con grande entusiasmo, siamo sempre affamati e assetati di proposte, di idee, di suggerimenti da parte delle persone che frequentano la nostra biblioteca, quindi è un invito che estendo a tutti voi. La biblioteca vive, è un organismo vivente che si deve alimentare di tutto quello che succede intorno, e con orgoglio dico che forse è l'istituzione più veloce e più moderna che esista, perché ha la possibilità di adattarsi ogni volta a qualcosa, no? All'attualità in continuazione, mentre magari altre fanno un po' più di fatica e hanno bisogno di una programmazione diversa. E la biblioteca deve essere sempre attuale. Siamo contentissimi di avere con noi questa sera Francesca Melandri, notissima al vasto pubblico, anche perché soprattutto qui da noi con il suo romanzo Eva dorme ha suscitato un grande interesse, è stato letto, è stato acquistato nelle biblioteche, non è mai rimasto fermo sullo scaffale, insomma è un volume che è piaciuto leggersi in queste storie, ecco, questo racconto, individuare uno spezzone di vita che ci accomuna o che ci divide. E abbiamo con noi invece Federica Sgaggia, che è l'ispiratrice di questo di questa raccolta, di questa antologia, che mette insieme appunto scrittori irlandesi e scrittori italiani, che hanno in comune parecchie cose, ce lo faremo raccontare dai nostri tre ospiti questa sera. Vi ringrazio di essere venuti qui, come dico sempre questa è la nostra sede, diciamo, principale delle iniziative, degli incontri che organizziamo due volte a settimana, ma è sempre anche un modo per invitarvi a venire a trovarci in biblioteca, dove ci sono i libri, dove ci sono molte persone che si mettono a disposizione per le vostre richieste. Vi lascio subito la parola e vi ringrazio tantissimo di essere qui con noi. Grazie. Grazie. Bravo. Bene. Allora, se riesco a parlare non stando... L'avevo detto io che era pericoloso. Questo è anche pericolante, cercherò di non toccare niente, di non rompere niente, e anche parlando, magari se mi allontano mi sentite lo stesso, comunque parlerò con un volume di voce accettabile. Allora, noi presentiamo qua, qui sta poi la difficoltà e la sfida di questa presentazione, un libro che si compone di diversi autori, cioè che colleziona diversi autori, tenuti insieme da un'idea che cercheremo di esplicitare, quindi cercheremo di capire qual è la spina dorsale del libro. E poi, una volta capita la spina dorsale del libro, andremo a vedere alcune costole. Le due costole principali del libro, vertebre, adesso non vorrei scendere in particolari anatomici. Bene, insomma, dipende da quale sistema di riferimento vogliamo usare. Due, ovviamente, le abbiamo qua. Francesca Melandri è stata già introdotta, come si dice sempre, in questo caso ha ragione, non ha bisogno di grandi presentazioni. Poi, quindi due libri più famosi, Eva dorme, più alto del mare, eccetera. E invece Federica Sgaggio credo sia non così conosciuta al nostro pubblico, giornalista, è autrice di un libro che è Il paese dei buoni e dei cattivi, un libro che... sulla, diciamo, di metagiornalismo, o meglio una riflessione sul giornalismo, sulle sue meccaniche, perché Federica è stata giornalista per 20 anni e poi dopo ha deciso di abbandonare questa professione, poi magari non è esattamente così o è così, comunque non lavora più presso la testata per la quale ha lavorato per molti anni. Ha scritto anche un altro libro prima, che si intitola Due colonne taglio basso, che è un romanzo però anche di ambientazione giornalistica, E poi, quindi poi adesso vi darò subito la parola a lei, in realtà compare nel nome che sta sotto il titolo, insieme a quello di Catherine Dunne, pronuncio bene Catherine Dunne o Dunne? Io non la pronunciavo, non ha uno standard, quindi quindi veramente chiamate in qualunque modo. Dovremmo veramente prendere esempio dell'Irlanda, non so per questo paese di libertà, paese di grande libertà e di emancipazione ermeneutica. La prima cosa che volevo dire, che volevo chiedere a Federica, se ci spiega, come dire, l'idea e il percorso in breve dal quale noi poi abbiamo dedotto fisicamente quest'opera che tengo in mano e che voi ben presto terrete in mano se comprerete il libro. Buonasera a tutti, grazie Gabriele. Questo libro nasce innanzitutto dalla mia passione sostanzialmente inspiegabile per l'Irlanda, e è venuto fuori per caso, ma assolutamente in modo intenzionale. E nel 2010 frequentai un corso di scrittura creativa a Dublino, in un posto che si chiama Irish Writers Center, perché a Dublino esiste un posto finanziato da un governo in cui gli scrittori si possono trovare, possono parlarsi fra loro, frequentare corsi. Che invidia! E questo corso era tenuto da Catherine Dunne, che è molto conosciuta ai lettori italiani per essere l'autrice di molti libri, fra i quali La metà di niente. E alla fine di questo corso lei ci invitò a bere qualcosa e io le chiesi, ma perché, siccome io sono sostanzialmente folle, le chiesi, ma perché non facciamo una cosa che coinvolga scrittori italiani e scrittori irlandesi? Ma aspettavo la risposta che qualunque scrittore italiano avrebbe dato. Sì, lei disse invece sì, ma convintamente, e comprò un quaderno immediatamente, sul quale scrisse l'etichetta Federica, e quello è il quaderno di tutte le cose che abbiamo fatto insieme in questi anni. E dal 2011 in avanti, con gruppi di scrittori italiani e irlandesi di volta in volta diversi, anche se qualche sovrapposizione c'è stata, ci siamo mossi un anno in Irlanda, un anno in Italia, e abbiamo dato vita a integrazioni di vario genere. La prima fu una discussione fra autori emergenti e affermati, perché c'era chiara fin da subito una cosa che ci interessava: dar voce a più persone e non soltanto a coloro che una platea già ce l'avevano o l'avevano avuta. Però fin dal principio l'idea era che si dovesse creare un'opportunità per i lettori italiani di conoscere degli scrittori irlandesi che non erano stati tradotti in italiano, e per gli scrittori italiani che non erano mai stati tradotti in inglese, con l'eccezione di Francesca adesso, ma che però non avevano avuto una storia di traduzione in paesi anglofoni. Ho perso la consecuzio, ma adesso mi ritrovo. L'idea era di creare una pubblicazione che rendesse possibile questo, che materializzasse una rete di relazioni che nel tempo si era creata e diventava piacevole e proficua. Come si può immaginare, non è stato facile, perché questo libro, che in Italia è uscito con il titolo Tra una vita e l'altra ed è edito dalla Guanda, è uscito anche in Irlanda. Non abbiamo una copia inglese, vero? Purtroppo no. Mannaggia, ce l'ho dimenticata, io ce l'avevo. Vi appoggiate. C'è una valigia, mentre tu parli la prendo dalla valigia. La valletta sta andando bene. Ce l'ho, no, c'è il libro. È uscito anche in Irlanda con il titolo di Lost Between, cioè smarriti in una situazione intermedia fra due cose, per una casa editrice che si chiama New Island Books, una bella casa editrice messa in piedi da un ragazzo giovane americano che si è trasferito appositamente in Irlanda perché l'Irlanda gli pareva, bla bla bla. E mettere insieme 15 autori, due case editrici, l'Istituto Italiano di Cultura, che ha finanziato la traduzione in inglese dei nostri racconti, a parte quello di Francesca che era scritto direttamente in inglese, e mettere insieme insomma persone, questa è l'edizione inglese, non vi dico la soddisfazione perché siamo andate a luglio Francesca e io a presentarlo all'Irish Writers Center a Dublino, insieme agli autori irlandesi, alcuni dei quali hanno anche scritto poesie qui dentro, mentre invece gli italiani no. Perché la poesia per noi è residuale, nella nostra letteratura è sostanzialmente residuale, così come residuali sono le antologie, noi consideriamo che siano esercizi di dilettantismo e di volontarismo letterario, probabilmente. E velleitarismo più che velleitarismo, sì, sì, sì, sì, è proprio velleitarismo. Invece lì hanno una dignità assolutamente anche editoriale, anche sì, di pubblico, di copie vendute. Sì. E abbiamo avuto l'enorme piacere, Francesca e io, di trovare questo libro nelle librerie. Ma intanto ci siamo fatte i selfie con dietro gli scaffali delle librerie, anche grandi librerie, e noi addirittura più di una copia. Sì, poi non era di Costa, era proprio di copertina. E noi, cioè, per noi è stato un momento veramente di grande fierezza. Però io sono particolarmente brava a seppellire immediatamente i momenti di fierezza, è durato tipo 2 minuti, poi mi sono sentita la solita niente di sempre, ma niente. Però ecco, e poi è uscito in Italia appunto con La Guanda. In inglese il sottotitolo è Writings on Displacement, che vuol dire scritture sul tema del sentirsi fuori luogo, fuori tempo, nel posto sbagliato, in transizione, spaesati, inadatti, inidonei, in attesa, in cammino. Mi vengono una serie di sinonimi. Io su questo, se mi consenti, volevo... No, tornare... non ti consento. Non so quale profilo della moderazione deve tenere, quello autoritario o quello dove vuoi fare. Quello autoritario. No, ma per dire, perché il tema, quando uno presenta poi un libro, deve condensarne la filosofia, ha sempre bisogno magari di un nocciolo, di un concetto, idea di fondo, e in effetti anche a me, forse poi suggestionato dall'esistenza del titolo in inglese, mi era venuto, no, questo tema dell'estraneamento. Mi è venuto estraneamento, in realtà qui c'è una possibile costellazione di parole, no, che si muovono tutte intorno a questo non essere. Per esempio, mi è venuto in mente, ho ripensato a un film che mi piacque quando lo vidi molto tempo fa, che era Lost in Translation, che era un film che parlava di una donna, che poi è un'attrice famosa, credo. No, non era la Kidman, era un'altra. Scarlett Johansson, che Bill Murray. Sì, quello non l'avevo visto. Che strano, stranissimo. Hai più notato Scarlett Johansson? Sì, per certi versi c'è l'attenzione selettiva. Comunque, lei si muoveva in Giappone. Si muoveva in Giappone, no? Quindi in un contesto alieno, a lei alieno, no? Dove c'è questo gioco del perdere se stessi, o meglio, il proprio orizzonte di abitudini si sgretola, e però non si entra, come dire, mai pienamente nel sistema di abitudini o di riferimenti del paese in cui si sta in quel momento. E in effetti io, per deformazione professionale, cioè vivendo qui, per deformazione esistenziale, quando ho visto Tra una vita e l'altra, poi in realtà pensavo sempre Tra una lingua e l'altra, cioè questo libro si intitola Tra una lingua e l'altra, e mi aspettavo, questo ovviamente sto scherzando, che ci fossero delle riflessioni sul bilinguismo, cioè il patentino, e sulla toponomastica. No, va bene, torno un pochino più. C'erano anche loro questa questione sul gaelico, per esempio, come queste autrici che nulla tolto una cosa. No, assolutamente. Nulla di Concours, adesso che esce sul mercato statunitense, ha deciso che Concours è diventato O'Connor, quindi l'inglesizzazione del gaelico, però appunto la questione del bilinguismo arriva anche là. No, io volevo prima appunto di magari toccare, perché poi i loro due racconti, dei quali parleremo, e forse addirittura il racconto di Francesca, che è molto contenuto, può essere letto interamente, però poi magari vediamo se poi voi se volete, eccetera. Hanno due, il suo ha un titolo appunto che mette in evidenza questa tematica in modo esplicito, perché si chiama Madrelingua. Come è tradotto? Come è stato tradotto? Mother tongue, quindi proprio madrelingua, cioè Muttersprache, e quindi è assolutamente esplicito. Prima volevo fare una domanda proprio curiosa, no? Perché io, per esempio, l'Irlanda non la conosco, e non tanto quello che ti interessa, ma cioè che ti ha sempre interessato, affascinato dell'Irlanda, perché credo potresti come dire, diffonderti per una vita, no? Per essere molto tempo, perché da te senza tempo. Pudore. Ma quello che mi ha incuriosito, leggendo la prefazione, è che tu dicevi questo grandissimo entusiasmo per gli scrittori italiani, perché era come se ci fosse il come se ci fossero dei tratti comuni, dei tratti comuni tra queste due nazioni che hanno bandiere simili, ma se tu riesci a esplicitare, proprio per mia curiosità, e credo forse anche in genere, una possibile chiave per capire perché questi autori si sono andati a fondere, dove sta, ecco, dove sta la similitudine? Poi ovviamente ci saranno anche delle ovvie differenze, ma perché queste due parti si sono attratte fino a, come dire, non fondersi, non coincidere, ma a stare bene accanto? Perché stanno bene accanto queste due sensibilità, di irlandese e italiano? Ne parlavamo proprio ieri, Francesca e io, a un altro incontro su questa antologia che c'era a Verona. La condizione di immigrazione e di emigrazione è ben nota a entrambi i paesi. La storia di, mi viene da dire, se non fosse una parola terribile, ma è una parola che non ha a che vedere con la politica ma con la sorte, di deportazione che tanto gli italiani quanto gli irlandesi hanno dovuto affrontare, è una storia comune, così come è comune l'immigrazione in Irlanda a partire dagli anni 90, dall'Europa orientale del blocco sovietico, da noi per adesso, in questo momento, più da sud e da sud-est, insomma. E questa è una cosa che mette le persone in condizione di capire che cosa vuol dire spostarsi, muoversi verso un'altra realtà e sentirsi spaesati, sentirsi persi. Abbiamo in comune anche un background cattolico, che lo vogliamo oppure no, nonostante il fatto che, per dire, io in Irlanda avevo conosciuto un enorme numero di protestanti, sorprendentemente, e in Irlanda parlo dell'Eire proprio, non della parte che è britannica, e abbiamo in comune un amore per raccontare delle storie. Nel Veneto si faceva filò, io ricordo le storie di mia nonna campana, le storie di mio nonno che era stato in Argentina e che a ogni pranzo durante l'estate diventavano sempre diverse, sempre più lunghe, con particolari nuovi, perché poi le storie non sono mai quello che è successo, le storie sono quello che è successo, più quello che ti ricordi, più quello che ci aggiungi, più il momento della vita in cui sei, più le persone con cui ne parli e forse più altre cose ancora, ma già queste tre cose erano sufficienti, questi tre elementi erano sufficienti a farci capire che avevamo del tessuto in comune su cui lavorare, avevamo delle storie da raccontarci. Ecco. Bene, io adesso chiamerei in causa Francesca Melandri, perché Francesca Melandri, se non sbaglio, poi magari Federica mi corregge, come riferimento all'esotico, è quello forse più distante, perché è un titolo che si chiama Hong Kong, e Acquario Hong Kong, si pronuncia Hong Kong, Hong Kong, anche lì c'è libertà, credo, anche lì come in Irlanda, molto liberi. Ed è un racconto piccolo che mette a tema questo tema, appunto, dell'estraneamento, più che dal punto di vista linguistico, poi appunto guardiamo se lo approfondiremo anche leggendolo, ma più che dal punto di vista linguistico, dal punto di vista della, come dire, della percezione degli eventi. Lei notoriamente disegna, come dire, spesso nei suoi racconti e anche in quello che sta diventando, sta crescendo, no? Credo anche voluminosamente parlando, il terzo romanzo che tutti noi stiamo attendendo, e anche in questo... Scusate, devo interrompere, Gabriele sta facendo il bravo e non sta dicendo a tutti quello per cui adesso mi ha lanciato l'occhiatina buffa. Lui sa che il termine con cui io parlo, tecnico con cui io parlo di questo terzo romanzo che sto lavorando, è il manlocco pazzo. E lo stavi per dire, poi hai detto no, fratello, lo dico io, no, per dire che sarà, insomma, abbastanza voluminoso. Di vergogna, lo stavo chiamando questo oggetto in crescita, questo oggetto in crescita. Questa specie di pasta lievitata, sì. Che non comunque, anche questo, che tra un anno esce, perché hai un'ottima scadenza, credo. Quindi c'è una deadline. Ho una deadline, nel senso proprio di deadline. In ogni modo c'è questa deadline. È un romanzo che anche in questo caso fonde, diciamo così, fonde la storia individuale, delle storie individuali, su una matrice storica, proietta su una matrice storica di largo, di larghissima misura. Come un poema dorme, e volendo anche un po' come Più alto del mare. Bene, Francesco Grandi, anche in questo malloppino, che è se questa, quello, qua, questa piccola goccia, che è Acquario Hong Kong, fonde, fa la stessa cosa, cioè riesce con una microstoria a rendere, diciamo, la dimensione individuale e la dimensione generale, però sotto il segno dell'estraneamento. E allora io ti faccio una domanda un pochino impegnativa, che poi magari rimando anche a te, introducendo. No, è impegnativa, ma la rimando a te, e se poi non rispondono, qualcuno risponderà, perché io esigo questa risposta. Quando io rifletto sul termine estraneamento, il retrogusto potrebbe essere sia positivo, cioè una cosa positiva, riuscire a estranearsi è una cosa positiva, però anche negativa, no? Allora mi viene in mente la parola sulla quale il famoso filosofo ha battuto molto per esplicitare il suo pensiero, che è il farmaco, no? Che in greco il farmaco notoriamente era sia il veleno che la cura, cioè i greci antichi avevano una parola sola per dire una cosa che ti ammazza e una cosa che ti cura, lo stesso oscillamento può essere visto anche nel concetto di estraneamento. Non lo so, è una suggestione del tutto filosofica e campata in aria, oppure potrebbe essere vista come anche lì come qualcosa di costante che motiva uno scrivere come quello di Francesca, che ovviamente a volte si estende in dimensioni molto larghe, ma a volte si concentra in dimensioni molto piccole. Bellissima domanda. Grazie, arrivederci. Adesso ci penso per circa un mese e poi forse riesco a darti una risposta, ma è veramente una bellissima domanda che non ero preparata, non me l'ha detta prima, e che mi sta già suscitando tante riflessioni, e adesso veramente ci penserò il prossimo mese, però intanto vi dico quello che sto pensando qui in diretta, appunto proprio perché me la stai facendo in diretta. Allora, mi viene subito, mentre parlavi, la prima cosa che mi viene da dire è che se c'è un'ideologia nei miei romanzi, nelle storie che mi piace raccontare, nelle storie che mi interessano, le storie raccontabili sono infinite, la scelta delle storie da raccontare è il primo e fondante atto del narrare, no? Per quale ti interessano. A me interessano tutte le storie che esprimono in qualche modo un'ambivalenza. I personaggi mi interessano, non penso che esistano esseri umani senza ambivalenze, in nessun essere umano c'è una compattezza di motivazioni, e quindi i personaggi che mi interessa raccontare sono quelli in cui viene descritta, rispettata e onorata l'ambiguità, l'ambivalenza, essere multisfaccettati. Perché mi sembra che sia l'unico modo onesto che io ho come narratrice di rendere giustizia alla realtà, perché così è la realtà, almeno io così la percepisco. E non a caso mi interessano tutte le storie, nei due romanzi pubblicati è molto evidente, in cui c'è una, o ci sono proprio due gruppi, due lingue, due, no, come appunto Eva Dorme, due fenomeni macro storici che si incontrano, e già il fatto che sono due prova con ambivalenza, perché comunque è il principio del due che si incontra, oppure come Più alto del mare c'è una storia ufficiale e una storia dietro, un'azione ufficiale come quella dell'andare a fare una visita in carcere, poi c'è la dietro, cioè c'è sempre un senso di bifaccia, no? E senza questa doppia, almeno doppia, come minimo doppia, perché come minimo le storie e le persone hanno due facce, ma ne hanno in genere tra l'altro anche molte di più. Questo è poi il mistero dell'identità, ed è anche il motivo per cui tutte le concezioni identitarie rigide sono terribilmente impoverenti, perché dicono che l'identità è una cosa sola, quella cosa lì, la mia identità è questo, e già ho tolto via un enorme pezzo di realtà possibile ed incontro con l'altro. L'estraneamento è questo, l'estraneamento vuol dire, può voler dire, in questo che stai dicendo, della mia identità, per quanto posso magari anche dichiararla, magari sono uno Schütze, non so, e la vesto, ma essendo un essere umano non ne sarò mai del tutto convinto e compreso, non posso esserlo umanamente. Si può essere fissamente qualcosa solo da morti, solo su una lapide. Finché vivo io sono più di una definizione sola, perché vivo, per il semplice fatto di vivere. E questo anche al di là del fatto che io la sappia questa cosa, ne sia cosciente, la esprima, oppure che invece la neghi, non importa. Quindi l'estraneamento per me come scrittrice è sia una condizione esistenziale a me notissima, non a caso sono diventata scrittrice, è sicuramente, questo ve lo diranno e lo dicono, non sto dicendo niente di originale, sono sicura che anche Federica potrebbe dire qualcosa del genere, sentirsi estraneati in qualche maniera rispetto alle convenzioni condivise dalla maggioranza delle persone è in genere una buona molla per approcciarsi alla scrittura e avere il bisogno, no, di in qualche maniera fare questi tentativi altri di identità gratis, che sono non vivendo ma scrivendo altre possibili esplorazioni, no, dell'essere proprio altrui. Quindi essere stata una bambina anche senza particolarmente connotazioni drammatiche, ma estraniata, ripeto, non traumatizzata, però sempre un po' quella che da fuori un po' guarda le cose, no? È proprio le perfette circostanze per poi essere una persona che è interessata a esprimere quello che ha guardato. Il mio mezzo è la scrittura, altri la musica, altri sono altri mezzi creativi. Quindi questo estraneamento è da un lato strumento del mio lavoro e poi anche oggetto del mio lavoro. Questo non so se ti sto rispondendo. Sì, no? Stai rispondendo e mi stai dicendo che, come dire, l'apparizione di Francesca in questo libro è, come dire, estremamente congrua allo spirito stesso del libro. Ora, a me interessava, devo dire, vorrei proprio porre l'attenzione sul racconto di Federica, perché è un racconto, secondo me, ma molto bello. Un racconto che ha... Sono d'accordo. Che è molto bello. A rileggerlo soprattutto. Sì, infatti l'ho riletto. Quindi quando leggete la prima volta che vi dovesse fare un'impressione, non vi spaventate, no. La rilettura è migliore. No, è un racconto molto bello, a mio avviso anche con un taglio che è un taglio cinematografico, cioè sembra veramente la scena di un film, uno di quei film, no, di cui uno si innamora, e poi anche lì scena che va a rivedere oggi nel tempo di YouTube, che posta ogni tanto, no, dicendo è così, no? E in cui posso dire solamente l'inizio, che mi ha colpito molto, c'è la protagonista femminile che si guarda allo specchio, ed è come se avesse quella titubanza, quel desiderio, ma al contempo anche lì ambivalente, la paura di identificarsi, di riconoscersi. E poi la storia slitta, diciamo, da questo punto iniziale, si disegna alla ricerca di una felicità che a un certo punto sembra addirittura invadere la storia. Ma tutto di me, cioè, dicono che raccontare quello che sembra. È bellissimo questo. È quello che sembra da me. È molto bello quello che il fatto che un lettore veda dentro delle cose che tu non avevi immaginato. È fantastico, è una cosa spaziale. Questo assolutamente, questo è spaziale, grazie, vai avanti. No, ma mi hanno detto che devo smettere. No, ma io infatti smettevo. Cioè, era veramente, mi avete portato sulla sospensione. No, è un racconto. C'è per esempio a un certo punto, ma non so se è un... è una questione stilistica. Cioè, a un certo punto io sono rimasto incantato da questa, da questo inserto, e secondo me questo si può leggere, questo inserto si può leggere, in cui esiste un monologo interiore a due. Un monologo interiore a due, non l'avevo mai visto. Stupendo. Ho detto, ma porca miseria, ma questo è un monologo interiore che generalmente abita una persona. Forse avete tutti letto, no? La signorina Else di Schnitzler, che fa tantissimo ridere, no? È una cavalcata per questa donna che ha paura, io non ricordo bene, ma risi moltissimo. E qua c'è proprio un piccolo inserto straordinario in cui il monologo è interiore ma a due, no? In cui c'è una specie di riconoscimento. Allora, io prima ti ho lanciato questa cosa perché mi piacerebbe che tu lo leggessi, tu hai detto non hai il computer, io ho segnato, cioè sì, sì, ma lo so trovare. Sai trovarlo. Ed è bellissimo, però volevo farti una domanda sulla scrittura, no? Perché quando uno si accorge di una scrittura così di pregio, ovviamente tu hai fatto la giornalista, sei anche una critica del linguaggio giornalistico, io lei la seguo molto su Facebook, come anche seguo molti di voi, non crediate, e leggo quello che scrive lei. Lei ha sempre una, come dire, è una persona che ricerca le trappole, cerca di scovare le trappole nelle quali chi incautamente usa il linguaggio cade. Poi posso raccontare come l'ho conosciuta? Sì, allora, dopo. Però appunto grande consapevolezza, quindi grande responsabilità del linguaggio, e però per esempio il linguaggio giornalistico e il linguaggio letterario, generalmente, questa è proprio una mia curiosità, noi tendiamo a distinguere, no? Per esempio, la prima cosa che succede a uno che dice vuole fare il collaboratore di un giornale, il redattore o il caporedattore gli dice: guarda, se hai bellità letteraria vai via, cioè tu non devi assolutamente, tu qui devi scrivere proprio, cioè l'uomo è stato, cioè nel modo più veloce, anche se è sciatto non ce ne frega assolutamente niente, come non fare poesia, no? Il famoso non fare poesia. Però io per esempio non sono mai convinto che questa sia in realtà la vera ricetta del giornalismo vero, così come non direi, però c'è una citazione, e da lì ti lanciavo l'idea, tu a un certo punto dici, in un'intervista che ti ha fatto Christian Braimo, c'è più realtà in un romanzo di invenzione che sulla pagina dei giornali. Hai detto questo, non so se poi se l'hai immaginato. No, l'ho detto. L'hai detto questo. Perché lo penso. Allora, volevo che tu ci spiegassi in qualche modo se per esempio questo caso è un caso, e direi estremamente fortunato, di apparizione letteraria della tua scrittura, oppure se esiste, come io penso, spero tu mi confermi, più di un ponte tra queste due attività, e se in fin dei conti la scrittura sia quasi un'attività, no? Noi si cerniamo scrittura e a volte si può materializzare in un bellissimo libro, a volte si materializza magari in articoli di cronaca che hanno una loro anche dignità letteraria tutto sommato buona, e comunque devono essere fatti sempre bene, perché in fin dei conti siamo tutti un po' adoratori del linguaggio. Volevo una tua, come dire... Ecco. Allora, io non credo che sia giornalismo quello che adesso passa per, viene definito giornalismo letterario. Secondo me il giornalismo è una cosa che si occupa dei fatti, non perché io ritenga che l'obiettività sia possibile, ma perché sono sicuramente convinta del fatto che il punto di vista deve essere reso intellegibile. Detto questo, però, il giornalismo si occupa dei fatti e non dei fiorellini, non si occupa delle emozioni delle persone, anzi io penso che attribuire alle persone di cui giornalisticamente si parla una qualunque emozione, un qualunque sentimento, rappresenta una forma di violenza che io giudico totalmente inaccettabile. Taglierei le mani e i piedi ai giornalisti che fanno una cosa del genere. Ogni volta che io leggo un pezzo di Francesco Merlo muoio un po' dentro, e di molti giornalisti, perché bisogna avere il coraggio di dire che uno che viene pagato per raccontare quello che succede viene pagato per raccontare quello che succede, quindi deve dire tutto, e quindi mi fa impazzire questa idea censoria che sta prevalendo adesso nelle fotografie. È pubblicabile la fotografia del bambino morto in spiaggia? Non è pubblicabile? Cosa ci stiamo facendo? Che operazione è? Bene, una notizia, i giornalisti sono pagati per dare le notizie, i fotografi sono pagati per fare le fotografie, se a qualcuno le fotografie danno fastidio vada a vivere su Marte, perché il problema è che l'informazione deve fare questa roba qua, punto, stop. La scrittura letteraria è un'altra cosa. Che ne pensi, Saviano? E la ragione per la quale... No, portate pazienza, cioè, allora, la ragione per la quale mi sono trovata giornalista è complessa e guarda un po' è duplice, è displaced, non lo so, però comunque io mi sono trovata giornalista per un'istanza morale molto alta, perché avendo un fratello disabile io dovevo dare voce alle persone che non avevano voce, e mi sono ritrovata giornalista perché era l'unica forma di scrittura che mi era consentita, dopo che, scusate, non volevo fare il colpo di teatro, però secondo un pezzo della mia vita lo racconto, dopo che quando i miei si sono separati mio padre aveva preso i miei diari e li aveva portati dall'avvocato, e immaginando che questo potesse produrre la conseguenza di proiettare su mia madre una luce negativa. Quindi per molto tempo la scrittura di cose che avessero a che vedere con me o che avessero una dimensione narrativa, indipendentemente dal fatto che fosse finzionale oppure no, per molto tempo questa dimensione mi è stata preclusa. Però siccome la scrittura è stata sempre per me il modo più elementare, il modo primario per esprimermi, ho pensato di sublimarla e portarla dalla pancia, dallo stomaco fino al cervello, e mi sono trovata giornalista per questo. E, però questo non mi ha mai impedito di cercare di creare un mio modo di raccontare cose che non sono necessariamente vere. E la mia libertà sta lì, naturalmente, perché lì mi prendo tutta la libertà che posso, tutta la libertà che mi rende felice. Il problema, per esempio, che adesso sto affrontando proprio in relazione alla questione, diciamo, che ce ne frega a noi del problema che stai affrontando, lo so, è vero, però mi faccia la domanda: ma che problema stai affrontando? Confondiamo questa cosa del problema. Ecco, sto affrontando il problema della lingua madre, noi parlavo francese. E io mi rendo conto che adesso faccio fatica a scrivere per una questione di lingua madre, perché ho realizzato che avendomi mia madre raccontato le favole, cantato le nenane nel suo dialetto, che era il dialetto campano, ed essendomi stato interdetto questo dialetto, perché mio padre parlava in vicentino con mia madre parlava in campano con mio padre, e loro due insieme parlavano a me in italiano, avendo avuto l'interdizione a usare la lingua madre, io in questo momento mi rendo conto che l'italiano per me sì ha senso, però è la mia lingua, però è una lingua di cervello, non è necessariamente una lingua di panza. E la mia passione sfegatata per l'inglese, per il tentativo di scrivere in inglese, per la sonorità, perché io ho un periodo che leggo soltanto praticamente cose in inglese, è secondo me un tentativo di fare i conti anche con tutto questo, e questo secondo me c'entra con displacement, c'entra con perché poi essere in un posto è il risultato di un'operazione appunto di identificazione con questo posto, e io mi rendo conto che io sto bene soltanto nell'altrove, cioè nel pendolare continuo fra un luogo e l'altro, e il mio luogo altro è diventato l'Irlanda, e non riesco a sentirmi parte veramente di niente. Credo che questa sia la cifra di tutta la mia vita, come diceva Francesca, e il fatto di sentirsi fuori, più che straniata, osservatrice, questa cosa mi ha segnata in modo, credo, definitivo, però sto bene. È una tragedia. No, qui c'è un problema perché abbiamo una tesi che non è contraddetta e quindi no. Io a questo punto dovrei fare però in realtà e posso elaborare ancora di più la tesi, cioè, dal punto di vista linguistico, in realtà questo è veramente uno spunto di straordinaria intelligenza e però problematico perché è inutile negarlo. Chi si trova bene in una condizione di pendolarismo esistenziale tra identità che non si fissano e quindi slittano l'una nelle altre, e quindi esteticamente gode anche, no? del proprio essere spiazzato e dunque spiazzante, non si sta muovendo in un contesto, no? Adesso qui apro e chiudo subito questa parentesi sociologica. Non è che adesso, mentre tutti voi annuivate straordinari, non è che ci muoviamo in un contesto esterno in cui questa piacevole crisi dell'identità è vissuta creativamente da tutti, no? Tant'è vero che spinte identitarie molto forti acquistano Io direi, non so se è sempre più peso, perché anche lì non è che esiste un criterio di misurazione, però sono, diciamo, la lingua comune, ecco, tu parlavi di lingua madre, questa è la lingua comune. Sono le due grandi forze, io credo, storiche, proprio del periodo che stiamo attraversando, questi due movimenti, proprio quello del sempre di più siamo tante cose, anche solo perché siamo su Facebook e comunque ci sono i voli low cost, per cui io ho due figli su due che studiano fuori dell'Italia, e quando ho accompagnato l'estate scorsa la piccola mia figlia in Francia, dove adesso studia, in macchina facendo questa da Brunico, dove, perché i miei due posti invece sono l'Italia e l'Alto Adige, no, ovviamente come i suoi sono l'Italia dell'Anno, i miei sono l'Italia e Roma e l'Alto Adige, e andavamo a fare questa transumanza con tutte le sue valigie, le forme di parmigiano, le moca, per mettere su la sua nuova casa da studentessa, mentre eravamo da qualche parte tra la Svizzera e il sud della Francia e l'est della Francia, mi ha detto però poi dopo, stavo andando a fare il triennio, il bachelor, dice: poi dopo per il master mi piacerebbe andare un po' all'estero. E io gli ho detto: ma scusa, abbiamo appena passato due frontiere, adesso dobbiamo passare una terza, mi sembra che già stai andando all'estero. Sì, vabbè, ma questa è Europa, casa. Quindi adesso lei è una 19enne di oggi, per cui l'Europa non è estero. E io ho detto, me ho fatto yes, cioè questo è, no, alleluia. Per me invece era ancora assolutamente un estero, anche solo andare attraverso il Brennero. In questo senso c'è un movimento in cui questo, non so se pendolarismo, ma diciamo proprio maggiore maturità identitaria di ammettere maggiori elementi in se stessi, maggiore conoscenza, maggiore senso di comunanza con il ragazzo a Shanghai che sta facendo la tesi sulla tua stessa, nella tuo stesso tipo di facoltà, e via Facebook mi scambia, o WhatsApp addirittura, che con il cellulare ci si scambia in tempo reale gli appunti, cosa che adesso i nostri giovani fanno. Quindi da un lato questo senso di un tempo erano solo le persone un po' strane che facevano questo tipo di vite, adesso ormai per un certo tipo di ragazzo minimamente interessato al resto del mondo è molto più accessibile, molto più facile, è normale. E questo in qualsiasi ambiente, anche al di là del censo economico, voglio dire, ovviamente facendo tante distinzioni, però comunque è lo spirito del tempo, da un lato. E dall'altro quello che dici tu, cioè, ah sì, allora io Orban, presidente ungherese, metto il muro e faccio la costituzione in cui si dice che solo gli ungheresi di sangue puro sono, cioè, no, sono le due, ma questo è il senso della storia. La storia è sempre stata una in questo sintesi, sintesi, antitesi e sintesi, cioè è sempre stata, non bisogna scomodare Hegel, voglio dire, però è lì, cioè c'è sempre stato nel momento in cui c'è la massima, in cui scaldano i motori le dinamiche del cambiamento, della novità, è il momento in cui vanno al massimo le dinamiche della reazione, e questo è la storia degli esseri umani da sempre. In questo momento, esattamente questo di cui stiamo parlando, questo è il tema del nostro evo, ma neanche dei nostri anni, della nostra epoca, del nostro evo usata come parola, come si dice, evo moderno, evo contemporaneo, evo medievale, cioè medioevo, cioè stiamo parlando di secoli, noi stiamo entrando in un nuovo evo, che stiamo finendo un evo che è durato più o meno 500 anni, cioè il colonialismo, l'uscita dell'Europa da sé, che ha poi incluso nelle sue dinamiche anche molto violente e distruttive il resto del pianeta, che fino a lì era fatto di tante storie diverse, invece questa spinta esterna ha collegato queste storie in un'unica storia anche di grande violenza e sopraffazione. Adesso questo evo sta finendo e sta cominciando quello che purtroppo nessuno in questa sala vedrà nella sua compiutezza, e questo mi scoccia parecchio, mi scoccia da morire, a me di morire non me ne importa niente, adesso soprattutto quando i figli saranno grandi, pazienza, però non poterla vedere questa storia fino in fondo veramente mi disturba. Infatti vorrei ogni tanto avere un bonus, ogni tipo 100 anni, dare una sguardatina, però vabbè. Noi non la vedremo, però si inventerà un'altra cosa che noi neanche riusciamo a immaginare, però un pochino i profumini già ci sono, no? E questo tema qui è sicuramente una delle cose che la fluidità dei confini innanzitutto del sé, perché i confini geografici, per esempio il Brennero, i confini tra quartieri abitati da abitanti di lingua tedesca, abitanti di lingua italiana, o tutti i confini esterni, i confini, i famosi muri che mettevano una volta, spero che non ci siano più, nelle aree ricreazione delle scuole a Bolzano, tra la scuola italiana e la scuola tedesca, no? Tutti questi confini esteriorizzati non sono altro che una esternalizzazione di crisi identitaria del sé, perché poi tutti questi fenomeni macro sono vissuti dal micro delle singole persone, e questa è la ricerca dei miei libri. Chi li conosce mi segue in questo che sto dicendo, e anche questa storia qui. Quindi l'idea che l'estraniamento sia una strezza terribile, perché certo che fa paura, e certo che fa, a chi non fa paura perdere la solida tradizionale terra sotto i piedi, però anche un'incredibile sfida e accrescimento. Questo è il tema dei prossimi almeno due secoli. Io sono pronta a scommetterci una pizza, però non ci sono. Tanto nessuno ti può non perdere mai. No, la posso perdere, però la posso dire. Vuoi vincere sempre facile. Allora, però posso scrivere tra due secoli, posso dire, ma questo cavolata che ha detto. Allora, io direi, approssimandoci anche alla fine, poi se c'è qualcuno che vuole prendere la parola. E allora, c'è un verso di una poesia qua, di un autore che io, autrice, non so se è Africa. È una ragazza, Afrique. Si chiama Afrique. Sono poesie meravigliose, le sue poesie. Meravigliose poesie, dove io così sfogliando eccetera ho visto a un certo punto, poi vorrei fare, ovviamente non mi permetto di leggere, oggi riflettevo, ma come si pronuncia? C'è una possibile epigrafe, tutto il nostro discorso che abbiamo fatto, cioè se io per esempio avessi dovuto avere l'incombenza di sintetizzare un articolo, un piccolo scritto, quello che ci stiamo dicendo stasera, avrei messo questa epigrafe che è veramente straordinaria. Cioè, magari se Federica me la legge, e quando inizia e dice when a foreign language a two, e poi la traduco, when a foreign language two. When a foreign language percolates your room until its idioms even permeate your dreams, that's not just acquisition, but erosion too. It's only when I follow the slow river and the first real sun of summer kisses fire to its skin that I remember. Traduzione è soprattutto del passo che io di cui mi sono innamorato. Quando una lingua straniera pervade la tua e le espressioni penetrano persino nei sogni, non è solo assimilazione, è anche erosione. Non è solo assimilazione, è anche erosione. Allora, io ci tengo affinché tu si può dire ci tengo affinché tu? Sì, ci tengo affinché tu. Cioè, ci tengo affinché tu. Avevo molta paura, soprattutto di lei, che ovviamente. Ieri, per esempio, ieri stavo scrivendo, bellissimo, stavo scrivendo un ricordino di Eco, perché è stato mio, e vedo così, non sento qui, che lei aveva scritto appena: io non ho nessun ricordo di Eco, ma non è polemica. No, non è polemica, però tu hai tremato. Ho tremato, sembrava veramente, come dire. Ti vedo. Non è che adesso. Cioè, tutti vengano fuori quel ricordino di ieri. Allora, a parte questo, se volessi così leggere quel momento straordinario monologo interiore a due, che è veramente veramente bellissimo. Grazie, vediamo di trovarlo. Quando Cormac la vide per la prima volta, lei aveva il dito in bocca e se lo stava leccando. E forse fu per il dito che lui le disse che gli occhi del convegno in Egitto erano i suoi. E lei le disse di quando era in due, e le diedero l'anestesia e si svegliò che era tornata una. E lui le disse che quando la casa fu messa a fuoco, dentro c'era sua madre, e lei gli chiese come hai fatto a sopravvivere, e lui le disse che aveva visto morire tanta gente, e lei gli disse ma io voglio che da me esca la vita, e lui le disse di che colore diventa una donna bruciata, e lei gli disse che invece che un uomo aveva voluto usare la scienza, e lui le disse quante lacrime davanti a una donna bruciata, e lei gli disse che anche la scienza l'aveva lasciata sola, e io adesso ho paura, e lui le disse non avere paura, e lo guardò e gli disse ho 40 anni, neanche la Spagna funziona, ho paura per forza, e lui la guardò e le disse you will be great, e lei gli disse thanks. Forse fu per il dito che si guardarono con occhi che mangiano e si parlarono con voce che tocca. Pezzo strano. Allora, tu cosa mi avevi detto che dovevi fare? Raccontare dove ti siete conosciuti. Ah, giusto! Poi una possibilità, oppure parlare del fatto perché l'ho scritto in inglese. Tutte che stiamo parlando di lingue. Tutte e due. Quello che vi interessa di più. Tutte e due. Tutte e due. Abbiamo il tempo, penso, come dire, consumato. Andiamo avanti? Possiamo andare avanti? Certo, va bene. Prego, come vi siete conosciute? Sì. E poi... E l'altra cosa, perché l'hai scritto in inglese? Sì. Tu l'hai scritto in inglese o in italiano? No, ho scritto in italiano e mi vergogno di scrivere in inglese. Benissimo. Io mi vergogno di scrivere in tedesco. Guardate, no, guardate che la vergogna è forse il sentimento umano prevalente. Sì, mi sentivo di dirlo. No? Scrivere in inglese, a meno che non ci sia senza vergogna. Allora, io voglio raccontare come ho conosciuto Federica, perché è una cosa, è un'informazione proprio che vi voglio dare. L'ho conosciuta per via del suo libro, quello sul giornalismo di cui si parlava prima, che si chiama Il paese dei buoni e cattivi, con un sottotitolo fulminante che è come il giornalismo italiano o in Italia, perché il giornalismo invece di informarci ci dice da che parte stare, ci dice da che parte stare. È un libro che vi consiglio veramente di procurarvi, la biblioteca secondo me dovrebbe averlo, è minimo fax del 2011 se non sbaglio, quindi si trova ancora. E non lo dico per fare così pubblicità Federica, e non lo dico assolutamente perché è mia amica, è il contrario, lei è diventata mia amica perché io ho trovato questo libro, c'entra con quello che ho detto prima, quindi non, adesso arrivo, vi faccio, cercherò di farvi capire perché ci tengo così tanto. Appunto, nell'osservare come il nostro giornalismo è stato pervertito a questa logica della, in realtà, funzione passiva del lettore, che viene imboccato da che parte stare invece che avere i fatti di cui tu parlavi, e quindi in questa divisione del mondo tra buoni e cattivi, già detto lì, non che poi uno se lo desume maturamente da adulto da solo, c'è esattamente la cosa che a me fa impazzire, che non avrei mai saputo analizzare da professionista quale ha fatto Federica sul mondo del giornalismo, ma che mi fa impazzire e che cerco con tutte le mie forze nel mio micro piccolo di combattere, appunto questa non rispetto verso l'ambivalenza, verso la complessità, verso l'ambiguità dei sentimenti, è esattamente quello di cui parlavo prima. Cioè, io lo faccio in ambito letterario, fittizio, di narrazioni fittive, e la ricerca di il saggio di Federica e sulle sue applicazioni ben più dannose e gravi, si possono anche non leggere romanzi, non muore nessuno, però quando i media sono invece improntati a questa logica da derby, no? O con me o contro di te, o con me o contro di me, senza reverenza verso la complessità e la sfumatura del mondo e soprattutto la maturità del fruitore, che poi sarà l'elettore che deve votare in base a quelle informazioni. Questa è una democrazia parlamentare, comunque rappresentativa, in cui viene a mancare l'assunzione delle informazioni in una maniera appunto non pilotata, non mediata, è una democrazia assolutamente zoppa, già quasi viene da interrogarsi se sia effettivamente una democrazia. Quindi i temi, però, fa parte della stessa etica, direi, dello stesso valore che muove il mio lavoro di romanziera, ovvero quello che senza rispetto verso la complessità dei fenomeni, delle personalità, delle psicologie, dei fenomeni storici, senza reverenza verso l'ambivalenza, non si va da nessuna parte a cercare di capire e quindi poi rappresentare il mondo. Questo è proprio fondamentale. E mi sono innamorata della sua testa, che è di una lucidità straordinaria. Prima leggendo il suo libro, poi mi sono andata alla tua presentazione a Roma e lì ti ho rimorchiata, ti ho chiesto la tua mail e poi siamo diventate molto molto amiche, adesso ci raccontiamo anche le nostre storie private, parliamo dei nostri figli. Molto bene. E perché hai scritto il racconto in inglese? Poi torno brevemente a Federica e poi apro magari uno spazio, diciamo, al pubblico, sì. Anche se noi in realtà potremmo andare avanti, ma è meglio. Prego. Allora, a questo punto tanto il racconto non lo leggiamo, perché credo che sì, ve lo lasciamo da leggere. Lo lasciamo da leggere. Credo, no? Quindi, quei tre minuti che vi racconto questa cosa. Allora, quando Federica un anno e mezzo fa, forse quasi due anni fa ormai, mi hai chiamato per invitarmi a far parte di questa antologia, io ovviamente ero molto contenta, avevo già sentito parlare da te di tutto questo scambio italo-irlandese, mi faceva molto piacere farne parte, però ero già due anni fa, come sono adesso, perché lo sono da tre anni, se non quattro ormai, infognatissima nel lavoro di questo terzo romanzo, che appunto avete capito è un romanzo di ponderoso, che quindi richiede molte ricerche, molto pensiero, molta costanza di concentrazione, che è il motivo per cui io in questi anni, anche avendone avuto così a volte possibilità, non ho scritto articoli, non c'erano, io devo fare quello, perché sennò non ne uscirò mai viva da un'impresa del genere. E quindi la preoccupazione era: oh mamma mia, adesso no, non posso mettermi a scrivere un racconto apposta. E ho detto: ma se io avessi qualcosa nei miei cassetti che posso recuperare, ovviamente tu devi pensare che ti va bene, però potrei anche darti qualcosa che non è recentissimo. E allora lei molto carinamente ha detto di sì, e io nei miei cassetti ho tante cose, perché io scrivo da quando ho 4 anni, quindi figuratevi la cartaccia che ho accumulata, e la stragrande maggioranza di questa cartaccia, anzi direi praticamente tutta, è proprio il suo posto giusto, sono i cassetti, che è bene che rimanga, perché non sono pubblicabili e sono quello che mi è servito poi per imparare più o meno a scrivere. Però c'è questa collezione di racconti che io ho scritto tra i 25 e i 26 anni, che sono stati gli anni, io tra i 25 e più o meno l'anno poi in cui è nato il mio primo figlio, cioè 29 anni, insomma per quei 4-5 anni lì, io ho passato molto più tempo fuori d'Italia che in Italia, viaggiando, facevo un lavoro che me lo permetteva, facevo la sceneggiatrice, quindi tornavo per fare 2-3 mesi una sceneggiatura e poi andavo in giro. E ho viaggiato tanto, e la lingua del viaggio, visto che poi i miei piedi hanno sempre girato, io avrei voluto anche andare in altri posti, però i miei piedi di loro giravano a est, mi portavano in Asia, e io li dovevo seguire, per cui ho passato tanto tempo anche vivendo, lavorando in vari posti, sempre in Asia, dove la lingua in cui vivevo è stato l'inglese per anni di seguito. Io a volte, mi è capitato una volta proprio di rendermi conto che non parlavo in italiano da 11 mesi. E tra l'altro tutto questo, io sono bilingue quasi di nascita, diciamo, ho imparato l'inglese molto presto nella mia vita per tutta una serie di motivi familiari, ho imparato a scrivere in inglese prima che in italiano, e quindi ho sempre scritto in tutte e due le lingue. Nei famosi cassetti ci sono robacce sia in italiano che in inglese, e questi racconti, visto che la mia lingua era un racconto di viaggio, la lingua del mio displacement, perché era assolutamente era l'inglese, li ho ovviamente scritti in inglese. Poi non ho mai trovato un editore, col senno di poi meno male, però ce n'erano 2 o 3 che, di cui non mi vergogno, e uno era questo qua. E quando lei mi ha detto di questa operazione ho pensato: è perfetto, nel senso che c'è io italiana che scrivo in inglese, quindi già in una lingua di estraneamento. E quelli erano gli anni in cui già sapevo, perché ho sempre saputo che avrei voluto, oltre a essere sceneggiatrice, fare anche provarmi, cimentarmi in una scrittura più letteraria, come infatti poi ho fatto. Ed erano anni in cui mi chiedevo in quale lingua l'avrei fatto, perché appunto io posso scrivere in entrambe le cose, però una è la mia madrelingua, l'altra no, per quanto sia una lingua che io frequento molto di più dell'italiano nelle letture, esattamente come Federica. Io di scrittori italiani leggo pochissimo, leggo moltissimo invece la letteratura angloamericana, e poi in inglese c'è più roba, c'è semplicemente più roba, e quindi c'è più per tutti i gusti, e la saggistica non c'è dubbio che la leggo più in inglese, a parte adesso quella che sto leggendo per questo libro che si tratta della storia italiana, ma anche lì c'è una storiografia britannica favolosa. E poi, come voi sapete un po', forse avendo letto Eva Dorme eccetera, il tema del multilinguismo c'è anche, a parte che è stato il tema proprio del mio primo libro, c'è nella mia famiglia. I miei figli invece sono cresciuti con il dialetto sudtirolese, quindi in famiglia abbiamo sempre parlato tante lingue, io ho sempre avuto a tavola, molto spesso abbiamo parlato italiano, Hochdeutsch, Pustrisch, inglese, e a volte quando adesso arriva mia figlia dalla Francia con le sue amichette, parliamo pure il francese, cioè abbiamo sempre avuto questo estraniamento linguistico che fa parte evidentemente di quel tipo di personalità di cui dicevamo prima, cioè di non... Io sono evidentemente attratta da questo, se no non l'avrei portato alla mia famiglia, non sarebbe così la mia vita. E una dimensione di scrittura come quella in inglese, sicuramente per il semplice fatto di quale lingua sto scrivendo, mi avvicina al tema dell'estraniamento, perché comunque sia, per quanto io sia fluent in inglese, io sogno in inglese anche quando sono in Italia, molto spesso, metà metà più o meno. Quindi a proposito dei sogni, sì, io a Roma sogno in inglese molto spesso, però comunque sì, mia mamma mi parla in italiano, e quindi c'è già quel livello lì di, che è molto interessante da analizzare, molto molto interessante da analizzare. Federica, chiuderei con te e vorrei che tu magari, abbiamo parlato molto ovviamente di noi, cioè voi avete parlato di voi, secondo me nella presentazione di un'antologia esiste sempre un racconto che magari casualmente è il vostro, però ne condensa lo spirito, e mi piacerebbe sapere se qui dentro c'è un racconto irlandese che ne condensa lo spirito in modo... Un racconto che ti è piaciuto particolarmente. Tu hai dovuto, credo, tu mi dicevi la gestazione del libro era stata anche difficile. Sì, tormentata, tortuosa. Sì, è stata un po' complessa, sì. Però anche bella, insomma. Ce ne sono tanti di racconti che mi sono piaciuti, però non saprei dire quale condensa. Magari non c'è. No, non c'è, perché ciascuno si è occupato del displacement in un modo differente. E la vena che percorre la sequela di racconti, la sequenza di racconti è coerente, ha un suo perché. E non saprei dire, per esempio, c'è lo spaesamento davanti alla morte di una madre, c'è lo spaesamento davanti alla morte di una sorella, c'è lo spaesamento davanti a un figlio nel quale si vorrebbero riconoscere i propri tratti somatici, ma si dubita del fatto che sia effettivamente proprio figlio. C'è lo spaesamento che deriva dall'essere stato nutrito dalla nonna Beat con una torta che conteneva delle sostanze allucinogene. Divertentissimo, è l'ultimo, mi sembra, no? Sì, è l'ultimo di Fabio Viola, strepitoso. E poi c'è lo spaesamento che nasce dal fatto che un bambino, pur essendo evidentemente cinese, è però un bambino italiano e scappa, e quindi è doppiamente spaesato, perché nessuno riesce bene a capire la ragione per cui c'è lo spaesamento dell'immigrazione e dell'emigrazione. C'è perfino lo spaesamento di un nobile che viene portato dalla Germania in Irlanda in alcuni suoi possedimenti, eppure ciò non di meno riesce a trovarsi spaesato da questa gente che gli pare così strana. C'è anche una vena di ironia, oltre che di incombente tragedia, perché in effetti sia gli italiani sia gli irlandesi hanno questo registro. Io lo vedo di più in Irlanda, e questa è una cosa che mi fa impazzire di gioia quando sento quella specie di cinismo. Loro hanno molte famiglie disfunzionali, non saprei perché, forse perché la loro condizione di isolani li mette in una sostanziale condizione di endogamia, non lo so, sto dicendo probabilmente una cosa che non sta né cielo né terra, terribile, razzista e schifosa, però a volte ho pensato, ma perché? E in tutti i corsi di scrittura che ho fatto, quando ti chiedono di raccontare la storia, io sono stata violentata mio padre, mio nonno ha violentato mia zia, e mia madre era abusata. E sono delle comunità isolate, anche in Alto Adige, quando tu vai a sentire le storie nelle valli dentro, le storie così sono, direi, piuttosto frequenti, direi che è lo stesso motivo, è l'isolamento della comunità. Sì, e hanno una forma di cinismo che è deliziosa. Raccontavo lei prima, questo non è irlandese ma è italiano, siamo stati a pranzo da un amico che è uscito con buon successo da un'esperienza attraverso un cancro, e stava mangiando smodatamente, un amico comune gli ha detto: la pianta di mangiare che viene un cancro se continui così. E questo è un tipo di approccio che è molto irlandese, loro sono straordinari in questo, quindi qui dentro c'è anche dell'ironia, non c'è solamente della tragedia, in quella noi siamo un po' più specializzati. Però ecco, no, direi che tragedione io non ho letto qui dentro. Ecco, c'è anche lo spaesamento di una storia. La bambina che muore, però è talmente sorvegliato quel racconto che non ha. Sì, non c'è effusività, non c'è. Non c'è patetico innanzitutto. Sì, non c'è che uno dice, oh, adesso mi taglio le vene, no, non ti viene. Ecco, se uno legge questa antologia non si taglia le vene, insomma. Bene, quindi non c'è un racconto che condensa, ma lo spirito, l'idea di questo libro si diffonde in tutte le sue pagine. Sì, forse proprio le poesie di Afric, quella di quella. Forse semmai sì. Le poesie di Afric, c'è cioè, sì. Che infatti tu hai scelto come epigrafe, sì, casualmente sono stato a battere sì, su quel sì, tasto sì. Lì senti tu, al contrario di, è l'ultima domanda, al contrario di Francesca, che lei ha dei vecchi racconti nei cassetti, e tu hai un malloppazzo in un cassetto? Ho vari malloppini e malloppazzi nei cassetti, sì. Faccio fatica a vedere come può venire fuori, però sì, c'è il malloppazzo nel cassetto. E anche quest'anno andrò, indovina in quale paese? Sì, in una casa per scrittori dove sono stata accolta semplicemente per aver presentato il mio progetto, e quindi sono in parte finanziata dal governo irlandese, e non essendo nessuno. E anche quest'anno vado e scrivo. Mi prendo un po' di settimane in questo posto in mezzo ai boschi, magico, dove sembra che sia impossibile fare qualunque cosa, una cosa diversa dal concentrarsi sulla creazione di qualche cosa. E gli incontri sono magici, però sì, c'è un lavoro, guarda un po' sulla maternità che preme e spinge. E in realtà poi c'è anche una storia surreale sul giornalismo, che io vedo bene come sceneggiatura, ma insomma ce la sotto con Roy, mi direbbe se le sembra che abbia senso, però io voglio tornare alla scrittura creativa perché mi manca molto e credo che dipenda da il fatto che io non sia riuscita a perseguirla con continuità in questo periodo, credo che dipenda da una sostanziale crisi di fiducia in me stessa che è derivata dal fatto che mi sono dimessa dal lavoro che ho amato così tanto e ho perso un'identità sociale, e quindi ho fatto molta fatica a vedermi come una persona capace di fare qualche cosa, anche se dire un no è un'espressione, lo riconosco, di grande capacità e di grande presenza nel mondo, però per me è stato pesante, insomma, ho dovuto fare i conti con un sacco di cose, anche le ristrettezze economiche che non aiutano, devo dire la verità. Francesca Melandri, Federica Sgargio, Tra una vita e l'altra, grazie. Grazie a voi. Se volete, se no ci si abbraccia così alla fine. Purtroppo non ci sono, purtroppo non ci sono libri da perché mi diceva Valeria, dillo tu che... Di solito è così, diciamo, di andare nelle librerie, oppure se la casa editrice si organizza, ecco, le abbiamo qua, noi li prestiamo in biblioteca, ma sono sicura che più lontano noi Cioè, io vi ringrazio tantissimo della serata, andremo a cercare e ci procureremo sì. Anche quello di Federica che è stato citato. Sì. Scusa se ti interrompo, tra l'altro sareste in buona compagnia tutti, adesso lo dico, è alla biblioteca del congresso a Washington, a Stanford, alla Columbia, sì. Cioè voglio dire, monitoriamo anche quelle, infatti. Grazie ancora.